Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Sei minuti, un'altra puntata di Focus Economia e allora i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo ampiamente e soprattutto nella seconda ora del programma del rapporto del Centro Studi Confindustria, le previsioni sul 2009, rischio credito, stretta sul credito, credit crunch come si chiama in gergo, e poi 600.000 persone, i dati, le stime vanno poi guardate con attenzione, ma insomma il rischio occupazione è molto alto, meno 600.000 posti di lavoro nel 2009 secondo il Centro Studi di Confindustria, con un deficit che tornerà a salire oltre il 3% del PIL. Le banche dicono attenzione, a noi invece risulta che il credito tenga per quanto riguarda la concessione, che ci siano meno richieste invece da parte delle imprese. Comunque, altro tema che affronteremo subito invece è il mercato dell'auto, perché i dati oggi a livello europeo sono pesanti, il calo è fortissimo in generale, con punte del 36% rispetto all'anno precedente, con cali del 50% in alcuni paesi europei, soprattutto dell'est Europa. In media c'è appunto un meno 26% novembre del 2008 su novembre del 2007, e a questo punto le iniziative europee nel settore auto iniziano ad essere un po' in ordine sparso, con il rischio poi che già altre volte abbiamo citato di una concorrenza interna all'Europa. Quando il gioco si fa duro, poi anche la solidarietà tra paesi europei diventa così più aleatoria e ideale che altro. Ancora il turismo, i dati diffusi oggi da Federalberghi che si accompagnano a quelli diffusi qualche giorno fa da Federturismo e CISET, anche lì molti di voi ci scrivono ma attenzione, i ristoranti sono pieni, gli alberghi erano introvabili sotto il ponte di Sant'Ambrogio, comunque dell'Immacolata. Sì, attenzione, sono indicazioni molto molto deboli, perché poi bisognerebbe capire quanta attesa c'era l'anno scorso, e non basta un weekend magari guardando alcuni posti in cui comunque resta una parte di popolazione che si può permettere anche certe spese per dire che non c'è la crisi. Di questo parleremo in una giornata in cui i mercati per fortuna vanno abbastanza bene. Devo dire, e qui verrebbe diciamo da usare un oggetto scaramantico, però, che è qualche giorno ed è qualche, forse un paio di settimane, che i mercati, per carità, sempre con giorni in cui perdono il 3-4%, ma di scossoni come quelli che abbiamo conosciuto tra fine settembre, ottobre, novembre, non ne registrano. Ci sono cali, i livelli sono bassi, ma ci sono anche recuperi nelle sedute successive. Oggi per esempio Francoforte guadagna l'1,4, Parigi 1,5, Londra più 0,25, l'America guadagna l'1,2 sul Dow Jones e il 2% sul Nasdaq, Mibtel mezzo punto percentuale di rialzo, S&P Mib più 0,6, molto bene Banca Popolare di Milano più 4,9, Intesa più 4,2, Atlantia più 4,1, Prismian più 3,4, Unicredit guadagna il 2,9, Geox il 2,5%, come Pirelli il 2% lo guadagna Italcementi e Mediolanum, e anche Fiat guadagna l'1,7%. Sul fronte opposto A2A perde il 3,6%, Saipem il 3,5%, come Snam Rete Gas, Terna meno 2,7%, Bulgari meno 2,4%, Mediobanca meno 2%, Mediaset perde l'1,7%, Autogrill meno 1,5%, Ubibanca meno 1,3%, come le generali. Euro sempre forte a quota 1,3745, e sul pound, visto che ieri ne abbiamo parlato, sulla sterlina inglese siamo sempre a livelli da record per l'euro, praticamente con un euro si comprano 90 pence, quasi un pound. Se ricordiamo che la sterlina, diciamo 6 anni fa viaggiava a 2800-2900 lire, e ricordiamo tutti che il cambio dell'euro è 1900 lire, questo dà l'idea di quanto si sia svalutata la sterlina in questi mesi. 349-238-6666 per i vostri sms. Rapidamente le altre notizie di questa giornata. Il petrolio stabile a $45 al barile, mentre domani in Algeria inizia, sono già arrivati delegati oggi, in realtà inizia la riunione dell'OPEC, con l'atteso taglio alla produzione. I paesi produttori vogliono infatti riportare il prezzo del barile a meno a $50. Sempre in tema di prezzi, oggi il mister Prezzi ha detto, quindi Lirosi, che c'è spazio per il taglio dei biglietti aerei e delle navi. Non ha più infatti alcun senso che le compagnie aeree e quelli di trasporto marittimo richiedano l'addizionale del carburante. Ci mancherebbe, il petrolio è sceso a 44, 45, ma qualcuno ci gioca su questo. Sul fronte dell'economia internazionale oggi la notizia più importante arriverà alle 20:15 ora italiana. La Federal Reserve ci farà sapere quanto taglierà di nuovo il costo del denaro in America, i tassi di interesse. C'è chi prevede, anzi la maggior parte prevedono un altro mezzo punto percentuale. Se fosse così, i tassi di interesse ufficiali in America scenderebbero 0,5%, cioè significa già di fatto negativo, ma si sarebbe il livello più basso da sempre negli Stati Uniti, nemmeno diciamo durante l'11 settembre i tassi arrivarono allo 0,5% in America. Mentre il tasso di inflazione in America è addirittura sceso dell'1,7% su base mensile. In sostanza, i prezzi al consumo nel mese di novembre sono cresciuti dell'1,1%. È un record storico, cioè un meno 1,7% nell'andamento dell'inflazione mese su mese, e anche in questo caso è un record storico. L'intensità e, se volete, anche la gravità di questa crisi viene fotografata anche da questi continui aggiornamenti di record storici. Le previsioni degli analisti erano di un calo più contenuto e comunque insomma l'inflazione all'1,1% significa che in America l'inflazione a questo punto non c'è più nel mese di novembre, e che i tassi viaggiano circa a metà di quello che è l'incremento del costo della vita. Molto peggio delle attese in America, io non capisco perché gli analisti continuano a fare gli ottimisti. Comunque, molto peggio delle attese anche il dato sulle nuove costruzioni, nelle nuove abitazioni, quindi non gli uffici, negli Stati Uniti meno 19%, un vero e proprio crollo a novembre. E veniamo al bollettino di questa crisi per quello che riguarda i gruppi bancari. Goldman Sachs ha chiuso per la prima volta nella sua vita da quando è sbarcata in borsa, cioè dal 1999, ha chiuso un trimestre in rosso, 2 miliardi e 120 milioni di dollari. È un risultato anche peggiore rispetto alla stima degli analisti, significa praticamente $5 quasi ad azione. E Morgan e JP Morgan oggi, altra banca americana, insomma non è che proprio se la passi benissimo, però continuano le banche a fare i report sulle altre banche, e ha detto che le banche europee nel prossimo trimestre, in questo che si sta chiudendo, dovranno operare svalutazioni per altri 14 miliardi di euro. Nel caso specifico Deutsche Bank, Credit Agricole e Barclays saranno le più colpite. Ora, JP Morgan le ha già beccate anche lei le svalutazioni, ha dovuto svalutare per 10 miliardi. Deutsche Bank fino ad ora ha svalutato per 7,6 miliardi, Credit Agricole per 8,5, Barclays per 6,5. Insomma, però dice JP Morgan, che a questo punto quanto a svalutazioni se ne intende, che arriveranno altri 14 miliardi di euro per i gruppi bancari europei. La vicenda Madoff coinvolge di nuovo il gruppo Unicredit, perché la Banca Medici, una merchant bank austriaca dedicata alla clientela istituzionale internazionale e di cui Bank of Austria, che è controllata di fatto nel 25% da Unicredit, Bank of Austria è controllata da Unicredit, a sua volta Bank of Austria ha questa Banca Medici austriaca. Insomma, Bankman dice aveva investito nel gruppo di Madoff 2 miliardi di dollari, che mo non rivedrà mai più. Il presidente dell'ABI, Corrado Fessoro, ha detto che il sistema bancario è solido e pronto ad affrontare qualunque situazione, sempre sul tema del crack, e del, insomma, più che crack, qui della truffa di Madoff. Andiamo ancora con l'economia internazionale rapidamente. La produzione industriale in Russia è crollata a novembre, meno 11%. Putin dice sono 1500 le imprese in Russia da salvare, cioè che devono ricevere finanziamenti pubblici, 300 società federali e 1200 regionali. La cosa interessante è che sono da sole, rappresentano l'85% del PIL. E quanto il modo in cui i politici affrontano questa crisi possa giocare sul consenso lo dimostra oggi quanto è avvenuto ad Angela Merkel, perché se Gordon Brown in Gran Bretagna è risalito in ogni sondaggio e sta mettendo in difficoltà il partito conservatore, proprio per il modo deciso, credibile, secondo gli inglesi, con cui ha affrontato la crisi, la Merkel, che continua a tentennare tra un rigore di bilancio, un non voler concedere soldi all'Europa, un cercare insomma di mantenere anche quella che era la linea sui conti pubblici tedesca, è sprofondata nei sondaggi. Il numero uno della grande coalizione adesso otterrebbe solo il 48% dei consensi se si votasse in Germania, 4 punti in meno in una settimana. È il sondaggio delle settimanali Stern che lo dice. Oggi il presidente del Financial Stability Forum, che è il nostro governatore Mario Draghi, da Tokyo ha detto attenzione, da Hong Kong, scusate, mi ha detto attenzione, la fase è ancora critica nella crisi, servono nuove misure, c'è un rischio di tassi sotto zero in alcune aree del mondo e per l'economia reale i dolori si sentiranno anche nell'area dell'Asia e del Pacifico. La Confindustria, come vi ricordavamo, ne parleremo anche più avanti. Iniziamo quindi ad andare sul tema vivo della prima puntata, della prima parte del programma, ossia Confindustria, previsioni macroeconomiche, ma soprattutto mercato dell'auto. Il biennio 2008-2009 sarà un biennio di recessione, lo dice il Centro Studi Confindustria. Per la prima volta dal dopoguerra noi avremo 2 anni di fila di recessione economica. Meno 0,5% il PIL quest'anno, meno 1,3% l'anno prossimo. La ripresa comincerà a farsi vedere solo alla fine del 2009, quindi ci riparliamo tra un anno, segnando poi nel 2010 un più 0,7%, questo a bocce ferme e augurandosi che null'altro debba capitare. Le ricadute sull'occupazione, meno 600.000 posti di lavoro, meno 1,8% come occupazione nella grande e nell'industria in generale. Il deficit tornerà a salire e attenzione, dice il Centro Studi Confindustria, perché le banche stanno stringendo sul credito non solo per le imprese ma anche sulle famiglie. La concessione dei mutui sta decelerando, quindi sta rallentando già da fine del 2007. L'ammontare dei mutui erogati alle famiglie italiane, fotografa oggi il Centro Studi Confindustria, è in calo rispetto a 12 mesi prima, un meno 2% a ottobre, ossia le banche hanno erogato quasi 5 miliardi di euro in meno rispetto all'anno fa. E poi per le imprese, insomma, si è passati a 6 punti percentuali di erogazione in meno, anche se c'è un aumento dell'erogazione. Il presidente dell'ABI dice, beh, attenzione, noi continuiamo a erogare molto credito alle imprese, non ne hanno risentito, in realtà ci sono anche molte imprese che chiedono meno investimenti, chiedono meno soldi. E di fronte a una crisi economica così dura, la presidente di Confindustria Anna Marcegaglia, al microfono la nostra Paola Cavalli, dice, attenzione, occorre che il governo convochi un tavolo. I dati evidenziano 2 anni di recessione, anche se noi evidenziamo che nella seconda parte del 2009 ci può essere un po' di miglioramento. Quella crisi è molto dura, è per questo che noi oggi facciamo un richiamo molto forte al fatto che il Paese ritrovi un'unità. Maggioranza, opposizione, forze sociali si devono unire, non devono più prevalere le contrapposizioni, i conflitti, le divisioni. La gravità della crisi richiede assolutamente che tutti coloro che hanno responsabilità si uniscono. È per questo che noi chiediamo al Governo di convocare molto a presto un tavolo a cui partecipino tutte le forze politiche, le forze sociali, per riuscire insieme ad affrontare questa crisi e dare delle risposte concrete ai cittadini e alle imprese. Qui stiamo riflettendo tutti sulla necessità assoluta, e noi siamo molto d'accordo, di rifinanziare gli ammortizzatori sociali. Questo è uno degli elementi fondamentali, bisogna supportare il reddito di coloro che probabilmente perderanno il posto di lavoro nei prossimi mesi, quindi su questo credo che ci sarà un'intesa tra le due forze. È fondamentale finanziare le infrastrutture, però anche qui non cantieri che potranno partire tra anni, ma cantieri o già aperti o cantieri che possono partire nei prossimi mesi. E terzo, noi chiediamo che anche dalla rimodulazione dei fondi FAS, dei fondi strutturali, escano anche delle misure che possano finanziare fiscalmente investimenti in ricerca e innovazione. Cioè, noi qui dobbiamo evitare che l'economia si blocchi completamente, ma dobbiamo fare in modo che si riprenda la fiducia nelle imprese e nei cittadini. Così la Presidente Confindustria Marcegaglia. Chi ci sta chiedendo, ma insomma, il dato sui mutui? No, il Centro Studi dice che l'ammontare erogato è in calo, non tanto le richieste. Poi immaginiamo che ci possono essere anche meno richieste, ma è l'ammontare erogato che è 5 miliardi di euro in meno rispetto all'anno scorso. Dicevamo che il presidente dell'ABI, l'Associazione delle Banche Italiane, Corrado Faissola, nega che vi possa essere una stretta sul credito. Ascoltiamolo sempre ai nostri microfoni. Io penso che lo sforzo che sta facendo l'industria bancaria italiana nel sostenere le piccole e le medie imprese, in generale l'economia, sia molto elevato. I dati che vengono forniti da tutti gli studi di ricerca sono tali da confermare che la crescita della quantità di credito che viene utilizzata dalle imprese è ancora molto elevata. Sicuramente non ha risentito, se non marginalmente, della diminuzione cospicua degli investimenti da parte delle imprese. Così Corrado Faissola al microfono, la nostra Vanessa Colangiuli. E quindi, con questa situazione, lo so che merita il gufo, ma ripeto, anche il gufo inizia a essere sotto Natale, è impegnato, vediamo poi se gli diamo un gufo complessivo, noi siamo pronti, però con questa situazione, con questo quadro delineato dal Centro Studi di Confindustria, poi fa specie vedere che l'amministratore delegato di Total Italia viene arrestato per le tangenti, coinvolto anche il deputato del PD Salvatore Margiotta, così come il patron di Air One Carlo Toto e il figlio Alfonso sono tra i 35 indagati dell'inchiesta pescarese, quella che ha coinvolto anche l'ex sindaco e segretario generale del PD Luciano D'Alfonso, viaggi, cene, vacanze, auto con artista per 3 anni, finanziamenti a proloco, associazioni, contributi vari anche elettorali. Non è statisticamente un caso che quando la crisi morde tanto poi il sistema stesso non riesca nemmeno a reggere certi sprechi, per chiamarli sprechi. Allora, la crisi dove si concentra? Alcuni di voi parlano dell'edilizia, ne abbiamo parlato a lungo con il presidente di tutte le società dell'edilizia italiane. Si concentra sull'auto, anche perché è nell'auto in questo momento che l'Europa, a mio avviso, sta dando i segnali forse peggiori di sé, quelli in cui va in ordine sparso, non riesce a avere una politica unica. E allora ringrazio e saluto per averci raggiunto in collegamento, da un lato, il presidente dell'Associazione delle Case Automobilistiche Estere, Salvatore Pistola, presidente dell'UNRAE. Buonasera. Buonasera, buonasera a lei e agli ascoltatori. Grazie presidente, grazie anche al professor Paolo Malagodi, che insegna economia dei trasporti, ma soprattutto poi anche editorialista del Sole 24 Ore, proprio in tema di quattro ruote e trasporti. Buonasera. A lei Malagodi, che cosa è successo oggi? Oggi è uscito il dato sul mercato europeo, meno 26%, 25,8% a livello europeo. La Spagna ha fatto meno 50%, cioè rispetto a un anno prima, una su due. Piangono anche la Gran Bretagna, meno 37%, l'Italia è tra le peggiori, meno 30%, Germania è sotto la media, meno 17,8, ma al calo più pesante dal dicembre 2007, Francia meno 14. E quindi complessivamente le immatricolazioni segnano il dato che ricordavamo, meno 25,8, meno 25% anche la Fiat, che però incrementa leggermente la sua quota a livello europeo, 8,3% di tutte le auto immatricolate. Nel dettaglio, adesso ne parleremo con Malagodi, poi i singoli marchi, però io vorrei capire che cosa pensa il presidente dell'URAI in primo luogo sulle iniziative europee, perché i licenziamenti ci saranno, ma lasciamo stare la cassa integrazione Fiat, ne abbiamo parlato, è iniziata ieri e andrà avanti tra l'altro anche fino a febbraio, si è saputo oggi, ma i licenziamenti riguarderanno 6.000 persone al Renault in Francia, 3.500 sempre in Francia da Peugeot Citroën, produzione ferma in Germania per 5 settimane, BMW produzione ferma dal 15 dicembre al 6 gennaio, Volkswagen a Wolfsburg, dove la sede storica dove si produce la Golf, chiude dal 18 dicembre all'11 gennaio, cassa integrazione per 16.000 su 44.000 lavoratori, Porsche, addirittura la Porsche sospende la produzione per 7 giorni, l'Audi la ferma dal 18 dicembre fino al 9 gennaio, la Opel ha chiesto aiuti per 2 miliardi, voglio dire, questa la Spagna, in Spagna la Seat ha annunciato 5.300 licenziamenti, e solo per restare sull'Europa. Ora, Presidente Pistola, i vari paesi si stanno muovendo in maniera molto diversa tra di loro, perché in Francia è partito un bonus da 1.000 euro per chi rottama la vecchia auto, prestiti alle filiali finanziarie di Renault e Peugeot Citroën, creazione di un fondo da 300 milioni. In Germania temporanea abolizione della tassa d'acquisto, da noi per ora nulla. In Gran Bretagna potrebbero esserci varie offerte agevolate, in Svezia fino a 2 miliardi e mezzo di euro al settore auto. Non è preoccupante vedere che l'Europa è tutta uguale quanto a tagli e disoccupazione che si va a creare, anche se temporanea, speriamo. Ma poi ognuno agisce in modo suo per quello che riguarda gli aiuti? Ma direi innanzitutto che questa crisi finanziaria ormai ci dà una estrema evidenza dell'impatto che ha sull'industria automobilistica. Evidentemente c'è una crisi dei consumi e c'è una crisi del credito. Le due cose concatenate portano a quelle situazioni drammatiche che abbiamo appena visto. L'Europa si è mossa, l'Italia sta guardando e quindi dovrà decidere nei prossimi giorni quale linea intende prendere. Noi riteniamo che occorra agire sulle leve del credito, perché l'industria dell'automobile, dalla produzione alla distribuzione alla vendita, quindi alle reti dei concessionari e soprattutto alla clientela, si può muovere solo attraverso un sistema del credito che funzioni e che sia disponibile. Dall'altra parte occorre intervenire anche sulla bassa domanda, e in questo modo, essendo una crisi di domanda, in Italia c'è un'opportunità veramente rilevante ed è quella della vetustà del parco circolante. Sembra un paradosso, ma il fatto di avere un circolante che al 50% ha più di 10 anni di anzianità in questo momento potrebbe essere uno strumento per, accelerandone il suo ammodernamento, per rispondere alla crisi, e quindi uno stimolo alla sostituzione delle auto più vecchie potrebbe venire da un intervento governativo che poi a sua volta avrebbe una fortissima cassa di risonanza da parte dei costruttori e delle reti di distribuzione. Quindi interventi sul credito, interventi sul modernamento più accelerato del parco circolante. Presidente, dopo sentiremo anche il professor Malagodi, una cosa però, in America Barack Obama ha fatto capire che il pacchetto di aiuti, che è un pacchetto da 14-15 miliardi di dollari, arriverà a condizioni rigidissime, e soprattutto vuole che cambi la mentalità, la testa dei produttori di auto, e cioè che dicano: va bene, noi vi aiutiamo, però se siete andati in crisi non è che fra 4 anni la prossima crisi siamo capo 12, e allora auto più ecologiche, sviluppate le nuove tecnologie, cioè che da questa crisi si possa uscire anche con un bene, non solo con un tappabuchi, un'emergenza continua, ma anche con un nuovo modello di sviluppo. Questo è un tema fondamentale, non si può solo dire: vabbè, dateci l'incentivo per la rottamazione e poi ti do l'Euro 4 o il SUV, così poi quando il petrolio torna a salire siamo di nuovo nei problemi. L'inquinamento, cioè, non si riesce anche a spingere sulla leva della rivoluzione vera e propria nell'industria dell'auto. Di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per concludere l'approfondimento sul mercato auto. Alcuni di voi scrivono: siete riusciti a far diventare una recessione una truffa economica? State diventando come loro con il vostro parlare. No, guardi, abbiamo sempre detto che questa crisi finanziaria nasceva da un delirio di onnipotenza della finanza, un'incapacità, tutto quello che vuole, che si sarebbe trasferita purtroppo anche all'economia, lo stiamo vedendo, anche perché non mi sembra che la capacità di arginare ci sia stata. Le truffe le abbiamo sempre criticate duramente. No, qui il problema vero è quanto scrivono anche altri ascoltatori, cioè finché non riparte un potere d'acquisto serio hai voglia a parlare poi di economia che deve uscire dal ciclo negativo. E allora, professor Pistola, anzi presidente Pistola, al di là degli aiuti, degli incentivi, cioè gli aiuti e gli incentivi una tantum per farci comprare l'auto Euro 4 a gente che non ha i soldi non cambiano un modello produttivo. Certo che se iniziassimo a far circolare auto elettrica, di idrogeno, quant'altro, forse da questa crisi avrebbe anche un buon risultato, oltre che una marea di elementi negativi. Ma certamente questa crisi è anche un'opportunità per rivedere i modelli di sviluppo, riconsiderare attraverso lo sviluppo delle tecnologie e l'innovazione, e quindi quando si potrà uscire da questa spirale si uscirà, e si uscirà in automobile, non necessariamente la stessa automobile che siamo abituati a conoscere oggi, ma certamente vetture che rispondono sempre meglio alle esigenze di mobilità, di riduzione dell'impatto ambientale, quindi delle emissioni di CO2, con consumi minori e anche meno costose. Ovviamente questo richiederà del tempo, quindi dobbiamo considerare, quindi partendo degli interventi che negli Stati Uniti si stanno studiando per l'industria dell'auto, occorre fare una distinzione fra il breve medio periodo e il medio lungo periodo. L'industria dell'auto è un'industria che, ancorché generalmente privata, fondamentalmente socializza se stessa per l'enorme numero di addetti che impiega. Milioni e milioni di lavoratori, ma non solo negli Stati Uniti, in Europa sono oltre 12 milioni gli addetti diretti. Parliamo anche dell'indotto, evidentemente andiamo su multipli estremamente rilevanti. In questo senso noi riteniamo che occorre trovare delle misure di breve che possano dare maggiore reddito alle famiglie, reddito disponibile, e quindi in questo senso occorre muoversi da una parte per creare delle premesse affinché la pressione fiscale, soprattutto alle fasce più deboli, venga ridotta fortemente e che si possa quindi creare una maggiore capacità e propensione al consumo. Dall'altra, quella di identificare dei percorsi che attraverso un intervento sulle misure restrittive del credito, che evidentemente in questi ultimi tempi hanno portato ad una, insieme ad altre realtà, ad una riduzione dei consumi, possano stimolare delle iniziative che possano quantomeno ammorbidire questa attuale fase così negativa, ridurre l'impatto, ridurre quindi le problematiche connesse all'industria da un punto di vista dell'occupazione e della cassa integrazione, che non colpisce solo il lavoratore addetto a quella linea industriale, ma tocca poi tutto l'indotto. E quindi è necessario una serie di interventi, di breve come di medio e lungo periodo, che possano sviluppare poi un nuovo modello, un modello di sviluppo e anche di mobilità che potrà alla fine di questa crisi darci anche un mondo migliore. Scusi, io non ci capisco nulla, ma penso che, vista l'entità di questa crisi, oggi tra l'altro la Fiat ha detto che la cassa integrazione andrà avanti più lungo del previsto, che potrebbe riguardare anche gli impiegati, vista il quadro che è uscito oggi dal Centro Studi di Confindustria, è augurabile un intervento fiscale sulle famiglie che hanno meno soldi, pensionati, lavoratori dipendenti, magari un po' più di contrasto all'evasione fiscale? Però voglio dire, se in questo momento una persona ha 1000 euro in più non li spende per comprarsi una macchina, non facciamoci illusioni con le chiavi di luna che ci sono. Altra cosa, ecco perché proponevo forse all'industria automobilistica di darsi anche una mossa a lei. Altra cosa, se tu mi proponessi una macchina che ha un vantaggio enorme, per esempio sul carburante, non inquina, intanto c'è un principio anche etico, ma poi potrebbe inquinare di meno, allora io posso sapere che comunque spenderò meno in carburante. C'è un modello soprattutto che va per la maggiore a Milano e a Roma, i tassisti ne sono entusiasti, non faccio nomi, sono le pubblicità, e beh, quella si carica sia a livello elettrico che a benzina, si spende molto meno. Allora, quando il petrolio tornerà a $80, noi ci auguriamo di no, ma almeno avrò un vantaggio. Se no, se è solo per dare 1000 euro per rottamare, passare da euro 2 a euro 4, boh, io non so. Ma guardi che fra euro 2 e euro 4, in termini di consumo, è vero, ci sono grandi differenze. Ma non c'è, Presidente, ma non c'è la rivoluzione che attendiamo e né quella che chiede lo stesso Presidente americano. Cioè, l'industria dell'auto deve cambiare, a mio avviso, anche passo, perché non può andare in crisi ogni volta che c'è una crisi, essere quella che ne risulta più penalizzata. Però, insomma, vedremo le iniziative. Io vorrei sentire anche il professor Malagodi sui dati di oggi e sul ragionamento che facevamo con il Presidente Pistole. Malagodi, pronto? Pronto? Eccoci qua. Professore, mi sente? Un segnale molto debole, Barisoni. Sì, vabbè, comunque i dati di oggi e il commento che facciamo col Presidente. Niente, il collegamento con il professor Malagodi è saltato. Io a questo punto ringrazio il Presidente dell'URAE, Salvatore Pistola. Vedremo che iniziative saranno possibili. Passiamo subito ai mercati finanziari, che hanno chiuso oggi abbastanza bene, più 1% il MIBTEL, più 1,3% l'S&P MIB. Allora, bene anche Parigi, più 2,1, Francoforte più 1,6, c'è il tecnico di regia che ride, oh, è il bello della diretta, quando casca la linea, non succedeva da un po', però Londra più 0,6%, tutto sommato buona, la settimana non è di quelle peggiori, diciamo, i mercati si stanno un po' assestando, speriamo, tocchiamo ferro, tocchiamo qualcosa, un euro a 1,38 sul dollaro e a 90 pound britannico a 90 pence sull'euro. I mercati, come sempre, da Radio Cori, il Sole 24 Ore. Livia Zancaner, buonasera. Buonasera. Allora Livia, oggi si sono mossi abbastanza bene, devo dire, parlo dell'Italia in questo caso, i bancari, Intesa più 4,7%, ma anche la Banca Popolare di Milano più 4%, Unicredit più 3,1%, Ubibanca più 3%, Fondiaria sul fronte assicurativo più 1,7%, insomma giornata non male, e Monte dei Paschi più 1,3%. Giornata non male oggi per il settore. Sì, allora, il settore bancario in Italia ha mostrato proprio un andamento positivo oggi, nonostante il comparto a livello europeo sia stato debole, e poi ha chiuso invece in territorio positivo anche per l'exploit finale delle borse. Allora, per quanto riguarda Intesa San Paolo, che è stata il miglior titolo bancario sull'S&P MIB, la società ha comunicato di non avere alcuna esposizione verso il fondo americano Madoff, che nei giorni scorsi ha destato preoccupazione in Europa e negli Stati Uniti. Stessa cosa è successa per Generali e Fondiaria Assai. Al contrario, invece, il Banco Popolare e Unicredit hanno mostrato di essere invece esposti nei confronti di Madoff. Per quanto riguarda la Banca Popolare di Milano, allora oggi praticamente il direttore generale dell'istituto, Fiorenzo Dallo, ha presentato al CDA il piano di riduzione dei costi, questo con l'obiettivo di preservare la redditività dell'istituto facendo fronte al calo dei ricavi che è proprio conseguente della crisi economica, e quindi il mercato pare che abbia apprezzato, oltre a non esposizione nei confronti di Madoff, anche questo aspetto, quindi questo taglio, riduzione dell'organico e sinergie tra le diverse società a livello di costi. E questo giustifica appunto anche l'andamento complessivo del settore, nonostante appunto una Goldman Sachs che abbia chiuso per la prima volta nella sua storia borsistica in rosso un trimestre, 2 miliardi e 120 milioni, e appunto nonostante altre tensioni, buoni quasi tutti, devo dire, sto controllando, non ce n'è uno negativo dei bancari oggi. Dopo le informazioni per chi è in viaggio, invece, i realizzi su Saipem erano immaginabili, meno 3,2%, A2A perde parecchio il 4, e Snam meno 3%, con motivi diversi. Livia Zancaner di nuovo in diretta da Radio Cori Sole 24 Ore con i mercati finanziari. Allora, si diceva dei cali, alcuni immaginabili, Saipem, Snam invece ha un calo per motivi un po' diversi? Sì, allora Saipem è stata colpita appunto dalle prese di profitto dopo che ieri ha guadagnato quasi il 6% grazie al rialzo dei prezzi del petrolio e in attesa della decisione dell'OPEC di domani. Oggi il calo è dovuto, oltre alle prese di profitto, anche al ribasso del petrolio, che ora perde terreno dopo che praticamente il ministro dell'energia dell'Arabia Saudita ha lasciato intendere che l'OPEC taglierà la produzione di 2 milioni di barili, una riduzione già ampiamente attesa dai mercati, che invece puntavano su una riduzione maggiore. Per quanto riguarda invece Snam, allora, secondo gli operatori si tratta di vendite da parte di qualche grosso fondo azionista della società, qualche fondo che per contro oggi avrebbe invece riacquistato titoli Atlantia, che infatti è salita del 4,53%, e Snam ha perso comunque terreno dall'8 dicembre, arrivando a perdere quasi il 9%. E per quanto riguarda invece Atlantia, la società ha beneficiato oggi anche dell'inserimento nella lista dei titoli preferiti da parte di Chevron, ma inoltre, a detta dei trader, in questo particolare momento di mercato la maggior parte dei movimenti sono sempre legati, come già detto più volte, a ricoperture da una parte e prese di profitto dall'altra da parte dei fondi. Allora, altri titoli. Fiat, perché abbiamo fatto un lungo approfondimento sul mercato dell'auto, le notizie terrificanti che arrivano dall'Europa, quanto licenziamenti, esuberi. Fiat oggi però guadagna, nonostante il dato di oggi sulle immatricolazioni europee, guadagna quasi il 2%, l'1,90, 5,15 euro. Sì, allora, il mercato è... Per quanto riguarda le immatricolazioni, il mercato è sceso del 25,8%, sì. Fiat vabbè, del 23,8%, con la quota di mercato in crescita. A sostenere il titolo sono più che altro le speculazioni sul futuro partner per la casa automobilistica torinese. Infatti la settimana scorsa sia Sergio Marchionne sia John Elkann, AD e vicepresidente, hanno parlato della necessità di un partner per Fiat, e secondo la stampa, il mercato, gli stessi analisti, il partner ideale per Fiat sarebbe Peugeot. E intanto domani John Elkann incontrerà il presidente Silvio Berlusconi a Palazzo Chigi, e qualcuno dice che probabilmente verrà affrontato anche il problema di un possibile, cioè la questione di un possibile partner, anche se ovviamente sono indiscrezioni non sì, confermate. Ricordiamo che Marchionne ha detto resteremo solo in 6 nel mondo. Il presidente dell'URAI oggi Pistola ha detto no, insomma, forse è una provocazione, però bisogna capire quanto continua questa crisi per il settore. Per il settore auto, rapidamente, di BPM abbiamo già parlato, il piano di riduzione dei costi è piaciuto, i migliori e i peggiori. Beh, Elica va molto bene, più 20,8%, è un po' di sedute che Elica in evidenza. Che succede alla società di Francesco Casoli? Sì, allora in realtà non ci sono novità ufficiali per quanto riguarda la società. Probabilmente si punta a conti superiori alle attese per fine anno, o qualche solita ricopertura da parte dei fondi che operano principalmente nelle small e medium cap. Bisogna anche ricordare che ci sarà una rivisitazione anche dei mercati proprio di borsa, quindi probabilmente c'è qualche fondo che cerca di riposizionarsi. Sì, poi pensiamo che a inizio 2007, parliamo del 2008, dai, a inizio 2008 valeva 3 euro per azione, adesso ne vale 1, è chiaro che insomma il calo c'è stato e c'è stato tutto. Indesit sul risparmio più 8,6, ma sono dettagli. Arena qualche realizzo meno 5,8%, bene Saras più 5,9, ma lontana dai prezzi di collocamento, e Ansaldo più 5,8%, Ansaldo STS, quella che fa la segnalazione elettrica. E ne approfitto con questo per tornare anche, intanto ringrazio Livia Zancaner, Radio Colli, Sole 24 Ore, per tornare rapidamente su due temi. Uno, visto che parlavamo di segnalazione elettrica, il Frecciarossa, perché la polemica ieri sera innescata dal presidente della Regione Lombardia Formigoni, è una polemica che minaccia di creare problemi alle ferrovie dello Stato, e poi parleremo anche dei prezzi dell'inflazione italiana, perché ieri, con tutto in calo, la pasta e i generi alimentari, pane, pasta, continuavano a salire. Allora, il presidente della Regione Lombardia oggi, nel salutare i giornalisti, classica cerimonia natalizia di fine anno, è tornato su quanto l'ha fatto molto arrabbiare del Frecciarossa, cioè che le ferrovie dello Stato, a detta della Regione Lombardia, stanno penalizzando i pendolari per via dell'alta velocità. Sentiamo la dichiarazione che ha lasciato oggi il microfono alla nostra Roberta Pellegatta. Ieri la situazione è stata molto pesante, oggi nel complesso possiamo registrare un leggero miglioramento, ma la situazione di oggi non è ancora soddisfacente. Sappiamo che dal punto di vista tecnico l'alta velocità può convivere con dei servizi per i pendolari adeguati e capaci di rispondere alla domanda dei 500.000 pendolari lombardi. La nostra azione mira non a mettere in scena proteste, ma a costringere alla realizzazione di un servizio adeguato. Certo, ove proseguisse questo stato insoddisfacente, siamo pronti alle forme di protesta più clamorose. Tutto questo, insomma, per dirvi che Ferrovie dello Stato conosce benissimo la situazione. È inutile che metta in campo una lamentela nei confronti delle regioni che non pagherebbero, perché sa che siamo impegnati insieme ad ottenere i fondi necessari da parte dello Stato. Vedremo se la situazione migliorerà, altrimenti iniziative ancora più forti della regione Lombardia. Il tema della pasta invece. Ah, perché oggi Mister Prezzi al secolo Antonio Lirosi dice c'è spazio per un taglio dei biglietti aerei e dei biglietti delle navi, perché non è più giustificabile l'addizionale del carburante con un petrolio sceso a $45 al barile. Ma nel frattempo ieri l'Istat ha confermato che l'inflazione a novembre è bassa al 2,7%, prezzi al consumo meno 0,4% rispetto ad ottobre, è il più basso livello di inflazione dal dicembre 2007. Crollano i prezzi degli energetici, benzina meno 10% la verde rispetto al mese precedente e meno 7,5% rispetto a un anno prima, gasolio meno 8% rispetto ad ottobre e meno 2% rispetto a un anno fa, però la pasta continua a salire, il prezzo della pasta fa un tendenziale, cioè anno su anno, del 30% in più, e anche il congiunturale. La Coldiretti ha detto: in questo modo le famiglie italiane spenderanno 3 miliardi 400 milioni di euro in più, 140 euro a famiglia, per l'acquisto in un anno di pane, pasta e tutti i derivati dei cereali. E allora la risposta del presidente dell'Unione Industriali Pastai Italiani, Massimo Menna, al microfono della nostra Anna Marino. Il piatto di pasta condito col pomodoro costa la metà della tazzina di caffè. Ci sono, secondo lei, delle speculazioni? Ci sono degli elementi che fanno lievitare i prezzi senza ragione? No, le speculazioni non ci possono essere, perché il nostro è un settore ad altissima concorrenza. In Italia ci sono più di 100 pastifici. C'è una capacità produttiva non utilizzata superiore al 30% e quindi c'è una fortissima concorrenza fra le aziende. In più a questa concorrenza delle aziende si aggiunge la concorrenza fra le insegne della distribuzione, che utilizzano alcuni prodotti, tra virgolette, civetta, per richiamare maggior ragione, con maggior forza l'attenzione dei loro consumatori. La pasta potremmo dire che è quello per eccellenza, no? Essendo il prodotto che ogni giorno è sulla nostra tavola. Per quanto riguarda la grande distribuzione, gli allarmi si possono ridimensionare? Non c'è nessuna né distensione né attrito particolare in questo momento, tranne qualche uscita che c'è stata un po' più aggressiva da parte di qualche catena sui giornali, ma sempre nell'ottica di fare demagogia, diciamo, no? Dal punto di vista proprio dei consumi, voi avete notato cambiamenti anche rispetto alla crisi nel consumo di pasta? Sì, certamente il consumo della pasta nell'ultimo anno, dopo vari anni, è accaduto il fatto che il consumo della pasta sia aumentato, possiamo dire circa del 3% nell'ultimo anno. Questo, diciamo così, a conferma del fatto che la pasta è riconosciuta come la soluzione del problema della spesa alimentare. Se dovessimo fare un conteggio veloce, potrei dire, vado a memoria, ma che l'aumento medio massimo che abbiamo avuto sulla pasta, considerando questo aumento al chilo, per il numero di chili, che sono 28 i chili che una persona mangia in un anno di pasta, si arriva intorno agli 11 euro all'anno a persona. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni per la seconda parte di Focus Economia, e quindi chiuso l'approfondimento sul settore auto. Il dato di oggi segnala a livello europeo un meno 26% con punte del meno 50% nelle immatricolazioni in Spagna, E anche la parte riguardante le borse è buona oggi la giornata, l'1,3% di rialzo sull'S&P MIB, il 2% a Parigi, l'1,6% a Francoforte, lo 0,7% di rialzo a Londra, l'1,2% in America. Molti di voi ci chiedono di Terna oggi come è andata in borsa, ma in sostanza Terna ha perso il 2,6%, ma bene sono andati oggi tutti i bancari, male alcuni energetici, A2A, Saipem, Snam e appunto Terna. Adesso l'euro che continua il suo recupero, è 1,38, recupero, il suo rialzo è 1,38,31 nei confronti del dollaro ed è a 90, quasi 91 pence nei confronti della lira britannica, sempre più forte l'euro. Adesso ci occupiamo del rapporto che è stato diffuso oggi dal Centro Studi della Confindustria sull'andamento della situazione economica. Prima però ancora un paio di aggiornamenti, ne parleremo domani perché oggi non ci stiamo, ma insomma il rapporto Confturismo Confcommercio sull'andamento del settore, ma soprattutto sulle proposte al governo, chiede oggi un taglio, una riduzione dell'IVA dal 10 al 5% nel settore ristorazione e alberghiero, porterebbe praticamente a far aumentare il giro d'affari di circa 100 miliardi di euro, archiviando quindi un incremento con un conseguente incremento di quasi 5%, gli investimenti degli imprenditori turistici potrebbero aumentare di almeno mezzo miliardo di euro, con un aumento degli occupati di quasi il 5% nel settore, da 2.400.000 a 2.600.000. Questa è una proposta che è arrivata nel giorno in cui l'America ha registrato un'inflazione in calo a livello record, mai successo che mese su mese scendessero i prezzi dell'1,7%, e anno su anno l'inflazione americana è praticamente inesistente, è l'1,1%. Sono crollate le vendite, le costruzioni di nuove case, meno 20% quasi, meno 19%, e alle 20:15 ora italiana è atteso il taglio dei tassi americani da parte della banca della Federal Reserve. Si ipotizza mezzo punto percentuale, sarebbe il taglio e porterebbe il costo del denaro americano a livello più basso da sempre. Praticamente i tassi americani andrebbero allo 0,5% nel giorno in cui JP Morgan sostiene che in Europa vi saranno altri 14 miliardi di euro di svalutazioni delle banche, e Goldman Sachs ha chiuso per la prima volta il trimestre in rosso nella sua storia borsistica dal 99, 2 miliardi e 120 milioni, allora un volatile si impone alla nostra attenzione. A grande richiesta torna il gufo che appunto è vivo e lotta insieme a noi. Tornando ai temi seri, invece, se Unicredit rischia di essere coinvolta di nuovo dal crack, dalla truffa di Madoff attraverso una controllata della Bank of Austria, che è una controllata di Unicredit, si chiama Bank Medici, avrebbe investito 2 miliardi di euro, di dollari nel gruppo Madoff. Oggi il presidente dell'ABI, proprio in merito al crack, truffa dell'ex presidente del Nasdaq, ha sostenuto che le banche sono assolutamente pronte a affrontare la situazione. Sicuramente il sistema bancario è solido ed è pronto per affrontarlo. È indubbio che una crisi sistemica come quella che ha colpito il mondo non può lasciare indenne da riflessi anche sul sistema bancario italiano, come anche gli eventi degli ultimissimi giorni che confermano. E che la crisi sia nella sua fase critica lo sostiene oggi anche il governatore della Banca d'Italia, Mario Draghi, nel suo ruolo di presidente del Financial Stability Forum. Parlando ad Hong Kong, dove si è riunita, ha detto la fase è ancora molto critica, servono nuove misure, i problemi vi saranno anche per le economie dell'area Pacifico e dell'Asia, non ne saranno escluse, e in alcune aree del mondo la possibilità che i tassi di interesse si avvicinino o scendano sotto lo zero, e quindi la minaccia di deflazione, ossia prezzi in calo netto, rischiano di mettere a dura prova l'efficacia della politica monetaria di alcune parti del mondo. Tema delicatissimo questo, tradotto in soldoni, dice il governatore Mario Draghi, attenzione, oggi la Fed taglierà i tassi, ma poi basta, cioè una volta che arrivi lo 0,5 cosa tagli? Non c'è più niente da tagliare, se continua la deflazione e i tassi sono allo zero, poi le leve, gli strumenti di politica monetaria che hai in mano non ci sono praticamente quasi più, o stampi moneta, vabbè, insomma, ma non hai altro strumento. In questo quadro si inserisce oggi il rapporto del Centro Studi Confindustria, l'economia italiana nella crisi globale, assetti internazionali, e beh, dice che la recessione durerà nel biennio 2008-2009, per la prima volta dal dopoguerra l'Italia avrà 2 anni di recessione. Dunque, dicevamo del rapporto del Centro Studi Confindustria, per la prima volta dal 1945 ci beccheremo 2 anni di fila di recessione, uno è quello che si sta chiudendo, 2008, l'altro è il 2009. La crisi globale presenta il conto all'Italia ed è un conto salato. 2 anni di recessione e la perdita di oltre 500.000 di posti di lavoro. A mettere le cifre nero su bianco è il Centro Studi di Confindustria. Più nel dettaglio, il PIL diminuirà quest'anno dello 0,5% e nel 2009 dell'1,3%. Ma a destare allarme sono soprattutto le previsioni sull'occupazione. Da qui al prossimo giugno si perderanno 600.000 posti di lavoro, portando il tasso di disoccupazione fino all'8,4%. Inevitabilmente il rallentamento dell'economia avrà poi ripercussioni sui conti pubblici, riportando l'anno prossimo il deficit sopra il 3% e il debito oltre al 106% del PIL. A provocare tensioni sui bilanci statali sarà anche l'assottigliarsi del gettito fiscale, che interesserà in special modo IVA ed IRES, l'imposta che grava sulle imprese. Secondo il Centro Studi di Confindustria, la prima metà del 2009 sarà insomma il momento più buio della nottata, mentre le prime luci dell'alba dovrebbero iniziare a vedersi a ridosso del 2010. Alla fine del prossimo anno, il motore dell'economia dovrebbe infatti rimettersi lentamente in moto e nel 2010 il PIL dovrebbe ritornare a crescere, seppur di un contenuto 0,7%. Come rileva il Centro Studi, sono già presenti diversi elementi che giocano a favore della ripresa. Il rallentamento dell'inflazione, il calo dei costi delle materie prime, la riduzione del costo del denaro e un rapporto di cambio meno sfavorevole che nel recente passato, a beneficio dell'export delle imprese europee. Elementi che non favoriscono solo le industrie, ma anche le famiglie, come evidenzia una cifra su tutte. Nel 2009, l'effetto congiunto del calo dei tassi di interesse e della diminuzione del costo di carburanti e bollette si tradurrà in un bonus per le famiglie italiane di ben 24 miliardi di euro. E quindi qualche notizia positiva in uno scenario da crisi, da recessione, c'è: i 24 miliardi di euro che spenderemo in meno l'anno prossimo tra carburante pieno, gasolio da riscaldamento e anche in costo del denaro perché i tassi sono bassi, è sicuramente una buona notizia. I commenti al rapporto li ha fatti la Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, che ha chiesto a questo punto, di fronte a questo scenario, la convocazione urgente di un tavolo da parte del governo. I dati evidenziano 2 anni di recessione, anche se noi evidenziamo che nella seconda parte del 2009 ci può essere un po' di miglioramento. Quella crisi è molto dura, è per questo che noi oggi facciamo un richiamo molto forte al fatto che il Paese ritrovi un'unità. Maggioranza, opposizione, forze sociali si devono unire, non devono più prevalere le contrapposizioni, i conflitti, le divisioni. La gravità della crisi richiede assolutamente che tutti coloro che hanno responsabilità si uniscono. È per questo che noi chiediamo al governo di convocare molto presto un tavolo a cui partecipino tutte le forze politiche, le forze sociali, per riuscire insieme ad affrontare questa crisi e dare delle risposte concrete ai cittadini e alle imprese. Qui stiamo riflettendo tutti sulla necessità assoluta, e noi siamo molto d'accordo, di rifinanziare gli ammortizzatori sociali. Questo è uno degli elementi fondamentali, bisogna supportare il reddito di coloro che probabilmente perderanno il posto di lavoro nei prossimi mesi, quindi su questo credo che ci sarà un'intesa tra le due forze. È fondamentale finanziare le infrastrutture, però anche qui non cantieri che potranno partire tra anni, ma cantieri o già aperti o cantieri che possono partire nei prossimi mesi. E terzo, noi chiediamo che anche dalla rimodulazione dei fondi FAS, dei fondi strutturali, escano anche delle misure che possano finanziare fiscalmente investimenti in ricerca e innovazione. Cioè, noi qui dobbiamo evitare che l'economia si blocchi completamente, ma dobbiamo fare in modo che si riprenda la fiducia nelle imprese e nei cittadini. Quindi un tavolo, ma anche misure concrete con effetto immediato, nel ragionamento della Presidente di Confindustria Emma Marcegaglia, intervistata dalla nostra Paola Cavadi. La Marcegaglia si è anche detta d'accordo con la proposta del Ministro Brunetta di equiparare l'età pensionabile delle donne a quelle degli uomini, aumentando poi la posta, dicendo che occorre fare una riforma del welfare complessivo in modo che si liberino risorse per gli ammortizzatori sociali. E poi il tema del rapporto banche e imprese, il rischio paventato dal rapporto del Centro Studi Confindustria di un credit crunch, anzi loro dicono che è già in corso, che stanno riducendo di 5 miliardi, si è ridotta l'erogazione di mutui, comunque anche sulle imprese c'è stata una stretta nel concedere il credito. E allora sentiamo al microfono sempre la nostra Paola Cavadi, nell'ordine l'appello della Presidente Marcegaglia e la risposta del Presidente dell'ABI Corrado Faissola. L'altro tema essenziale che noi vogliamo affrontare è il problema della ristrizione del credito. Abbiamo segnali nelle ultime settimane che il credito è ristretto, c'è molta difficoltà di accesso al credito da parte delle imprese, soprattutto delle piccole imprese. Siamo molto preoccupati su questo, quindi noi chiediamo prima di tutto che il provvedimento del governo a supporto del capitale delle banche venga finalmente concretizzato, purché poi le banche si impegnino ad aumentare i crediti nei confronti delle imprese, e chiediamo assolutamente che venga fatta una iniziativa che permetta alle imprese di incassare questi 60-70 miliardi di euro di crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Quanto è stato fatto nel provvedimento del governo con la SACE è insufficiente, quindi noi chiediamo invece che ci sia un provvedimento che dia veramente la possibilità alle imprese nelle prossime settimane di poter incassare i propri crediti con linee di credito nuove, magari anche finanziate dalla Cassa Depositi e Prestiti, che avrebbe l'opportunità di fare questo. Quindi il credit crunch è un elemento essenziale, se non risolviamo questo problema il rischio di una crisi più dura è alle porte. Io penso che lo sforzo che sta facendo l'industria bancaria italiana nel sostenere le piccole e le medie imprese, in generale l'economia, sia molto elevato. I dati che vengono forniti da tutti gli studi di ricerca sono tali da confermare che la crescita della quantità di credito che viene utilizzata dalle imprese è ancora molto elevata. Sicuramente non ha risentito, se non marginalmente, della diminuzione cospicua degli investimenti da parte delle imprese. E poi il dialogo governo-opposizione, queste quindi le due osservazioni che abbiamo sentito da Emma Marcegaglia, d'accordo Faissola, ma dicevo il dialogo... tentativo di dialogo tra governo e opposizione. Sta terminando in questi istanti l'incontro tra l'ex ministro Bersani e il ministro Tremonti, con le richieste del PD per gli emendamenti al pacchetto anticrisi. Questa mattina, proprio a maggio, nel Centro Studi Confindustria, Pierluigi Bersani aveva anticipato quali richieste avrebbe fatto al governo nella figura del ministro Tremonti. Noi riteniamo che una manovra di un punto di PIL, metà temporaneo, metà strutturale, sia fattibile, che sia utile concentrarla strutturalmente su una detrazione per redditi medio-bassi, temporaneamente una forte operazione sugli ammortizzatori con dentro elementi anche di riforma, già primi elementi di riforma universalistica, Io glielo dirò oggi a Tremonti. Io ti dico che si può fare. Tu mi dici che non ci sono i soldi. Io ti rispondo, li trovi. Perché se ci sono 200.000 o 300.000 famiglie per strada, si trovano. E un paese deve sapere che deve trovarli. Se siamo ancora un paese, diciamo così, civile. Questo quindi quanto di, o quello di cui hanno discusso fino a qualche istante fa il ministro Tremonti e Pierluigi Bersani. È veramente tutto per questa puntata di Focus Economia. Da Sebastiano Barisoni, gli auguri di una buona serata. Noi ci sentiamo domani, come sempre, dalle 17 in poi.